11. Ascolta e controlla. 1. Perché siete qui? Siamo qui per lavorare. 2. Da quanto tempo sei in Italia? Sono in Italia da 3 mesi. 3. Perché sei in Italia? Sono qui per il corso d'italiano. 4. Sei a scuola con Rosa? No, sono a scuola con Paolo. 5. Oggi noi siamo a casa con i nonni. 6. La casa e la scuola sono al centro, non in periferia. 7. Noi abitiamo in Italia, a Roma, da 10 anni. 8. Non sono italiani, sono francesi. Sono di Parigi. 9. I ragazzi sono in pizzeria per mangiare una pizza. 10. Di dove siete? Siamo di Roma.